Il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing. La sai facile al knockout che ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh oh oh oh oh oh. Il tuo bacio è come un rock, i tuoi baci non sono semplici baci. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing. La sai facile al knockout che ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh oh oh oh oh oh. Il tuo bacio è come un rock. C'è come un rock che ti morde col tuo swing. La stai facile al knockout che ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno shock e perciò canto così.